Ma scusi, ma un attimo. Si fanno mai nomi, scusate. No, ma i nomi non è, no. Non è corretto. No, non è corretto. Ma non è che vogliamo sapere quale deputato o senatore. Se recentemente, se in passato ha mai frequentato qualche politico noto, insomma, questo volevo sapere, solo questo. Certo, come no. Scusi un attimo, io vorrei capire una cosa, ma Renzi, per esempio, com'è come leader? Come lo considera lei? Ma è ancora troppo presto per giudicarlo, ancora troppo presto. Bisogna dargli un attimino, un po' più di tempo. Un po' vedremo più di tempo? Un po' più di tempo, un altro pochettino. Vediamo come andranno nei prossimi mesi. Vedremo come andranno nei prossimi mesi. Meglio, no? Spero meglio. Parenzo mio. Non lo so, Parenzo, sono distratto dal, ma sei veramente dal distratto? Trailer di questo sei film. Sei distratto dal trailer. Beh, è una storia incredibile, è una storia pazzesca. Ma dici, dimmi qualche altro c'è titolo. Un plot un altro titolo? Un sì, altro sì, dimmi. Ci dica lei qualche altro titolo di film che ha fatto. C'è altro, sì, beh, sì, sterminata. Sterminata filmografia la signora, eh. Sterminata, sterminata. Allora, vi dico magari l'ultimo che sto girando da regista, La Carriola. La? Carriola. Ma cos'è, un film sull'agricoltura? Che cos'è La Carriola? Assolutamente, scusa. Come, no. Io mi sono ispirata a Pirandello per questo film. Scusi, qual è il politico che la attrae di più, che la arrapa di più? In questo momento direi, sono un pochettino indecisa tra... Tra, sì? Tra chi? Siamo Renzi. Alla radio. Tra Renzi e... Anche Grillo direi non è male. Non è male. Scusi, ma io vorrei capire una cosa, ma lei nella vita privata ha la stessa carica sessuale che ha nei film? Uguale, si comporta allo stesso modo o no? Ma io sono molto passionale in tutto e per tutto quello che faccio. Per sono cui molto creativa. Si comporta allo stesso modo, eh? Si comporta. Capito, Parenzo? Beh, Parenzo è qui che sto cercando di le assicuro che ha cambiato completamente atteggiamento. Di solito è compassato, è impazzito, è completamente ottenebrato da questa cosa qua. No, ma non mi ero mai occupato della signora Torrisi. È veramente ottenebrato. No, dai titoli, i titoli mi piacciono. Giochi pericolosi di un senatore della Repubblica. Vediamo questo. Ma ti assicuro che giochi pericolosi di un senatore della Repubblica. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. E c'era già, ecco, infatti, capiamo. Immagini. Comunque c'è stata una subito immagini. C'è stata una svolta nella sinistra italiana dalla intervista. Ma qual è la storia, scusi signora, adesso, questo film Giochi pericolosi di un senatore della Repubblica? Beh, qual è il plot? Titolo, no? Ma di che cosa si qual è la storia esatta, l'intrigo? Ma quale storia? Non c'è storia. non c'è storia. Scusi, ma lei è pronta a votare per il Partito Democratico? Ma guardi, il primo passo è stato fatto. Ieri mi sono trovata molto bene con loro, con i giovani democratici. Sì. Mi sono piaciute molto le loro proposte, addirittura di una città dell'amore a Napoli. La città dell'amore a Napoli, anche noi siamo favorevoli alla città dell'amore a Napoli. Va benissimo, grazie signora Torrisi, grazie, l'abbraccio tantissimo, ci stia bene. Parli grazie, un po' più grazie. Veloce la prossima volta. Ciao. We don't need no education. Allora, volevo sentire Raffaele da Roma, il signor Raffaele. Raffaele? Mi fate parlare con Raffaele, per favore? Dov'è? Ma che ne so, Antonio da Rovigo, allora, dai, Antonio da Rovigo. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Ciao ascolta, Antonio, volevo... caro. Ciao, ciao. Ascolta, io volevo parlare un attimo con Parenzo, volevo solo chiedere. Sì. Perché difendi sempre i Rom e non dire che non è vero? Cioè, cazzo, siamo in Italia. Sì. Difendi un po' anche gli italiani, non so. Ma in che senso? Cosa vuol dire? Parte che... Parlo dei disoccupati, di quelli che occupano le fabbriche, dei lavoratori. Che ma vuol no, dire? No, quando si sente di Rom che. Ma io non che è che difendo. Che io non stazioni. È che difendo i Rom. Chi delinque deve andare in galera. Ho detto semplicemente che i campi Rom, se ci sono, la responsabilità sarà di qualcuno, cioè della politica che continua a tenerli aperti. E questi vanno in qualche modo integrati o sbattuti in galera quelli che delinquono. Fine, questo ho detto. Va bene, andiamo a Roma, Andrea. Guardi, però, signor Parenzo, l'integrazione è un accordo fra due parti. Se una delle due non vuole, culturalmente, bravo, perché sono bravo. Nomadi, è inutile che noi insistiamo. Scusi, abbia pazienza. Lei continua a difendere questi nomi, per carità. Beh, io sono un autista ADAC dal 2001. Ciao, Cruz! She was a fast machine, she kept the motor clean. She was a fast. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Allora ragazzi, diciamo la verità, se quello che è successo oggi al Senato con il contingentamento dei tempi, con questa tagliola, la discussione entro l'8 agosto, cioè il voto entro l'8 agosto, eccetera eccetera, e l'avesse fatto Berlusconi, ci sarebbe la gente in piazza con i fucili puntati, ci sarebbe la rivoluzione, la rivoluzione, capito? Cioè, diciamo la verità, ma non lo se so, Berlusconi ma... avesse detto io voglio il voto sulla riforma del Senato entro l'8 di agosto, fatto, ci eh. sarebbe l'appello ai carabinieri per fermare il golpe di Berlusconi, eccetera eccetera. Dopodiché, siccome noi siamo sempre stati paladini della velocità nelle decisioni, va benissimo il contingentamento dei tempi, ma Renzi se lo può permettere, Berlusconi non se lo poteva permettere. Beh, mi sembra che gli stanno facendo un bel casino anche a Renzi, eh? Sì, ma robetta, robetta, robetta. Per esempio, sentiamo una delle paladine del Partito Democratico, la signora Picerno, dire che i nuovi senatori costeranno 0 euro. E no, amica mia, questo non è vero, perché non costeranno 0 euro. Ci saranno comunque i viaggi, ci saranno magari qualche gettone di presenza. Beh, questo non è previsto, uffici però. Continueranno, gli uffici continueranno comunque a funzionare, cioè, non sarà a costo zero il Senato. Non ci fate passare questa baggianata, perché a costo zero no. Ci sarà un costo sicuramente inferiore, non c'è dubbio, perché non ci saranno i senatori elettivi, però a costo zero no, eh. Cominciamo a annullare, a cancellare gli stipendi dei senatori, perché costeranno, lo voglio ricordare anche a chi ci ascolta, 0 euro. È un segnale simbolico, certo lo è, ma questo paese ha bisogno anche di simboli, ha bisogno di sentire una politica che è capace di venire incontro ai bisogni di, appunto, degli italiani che faticano, che lavorano ad agosto, che fanno appunto difficoltà a mandare avanti le loro famiglie. Ragazzi, veramente, però io, c'è un eccesso di propaganda su questa roba qua che fa paura, eh? Un eccesso di propaganda che fa paura. Non colleghiamo gli italiani che faticano agosto con il voto al Senato, non c'entra niente. Renzi vuole ottenere un risultato, Renzi vuole ottenere un risultato, vuole far vedere all'Italia che lui è rapido a decidere, è rapido a decidere, ed è per questo che vuole fare la riforma del Senato. Costi quel che costi. Beh, però stiamo parlando della legge del Senato, non di legge ad persona, ma ad esempio falso in bilancio o quant'altro. Cioè, questa è una cosa che investe tutti direttamente. Questo c'è un po', c'entra nel metodo. Poi si può criticare Renzi, figuriamoci, lo facciamo. Però facciamolo sulle cose vere. Oh, la taverna, voglio sentire la taverna, mi piace. Mi piace, da ogni giorno devi mandare sempre la taverna. Rimpiango Berlusconi buttato. Senti questa cosa della taverna, una del 5 Stelle che dice rimpiango Berlusconi. Se mai avessi pensato di stare in quest'aula e dovermi pentire di non avere più Berlusconi, perché adesso è arrivato Renzi, vi credetemi, non l'avrei mai immaginato, non l'avrei mai immaginato. Ne abbiamo buttato fuori uno e se ne siamo messi. Senatrice, siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti, dovrebbe stare all'argomento. Ci sto il governo, eh! Che tempi, che tempi. Tempi durissimi. Intanto la 7 ha smentito ufficialmente, mi è arrivata una comunicazione. Sì, leggiamola bene tutta. Aspetta che la Gruber possa andare a Ballarò dopo la cosa che ho detto io ieri, ma in realtà non è che ho detto che è sicuro che Lilli Gruber. Ho detto che era un pensiero di qualcuno di prendere Lilli Gruber per Ballarò, non era una cosa così così folle. C'erano delle voci e io le ho riportate come avviene in qualsiasi trasmissione, come avviene in qualsiasi giornale, eccetera. Comunque, i gentilissimi rumors, esatto, bravo. Sì. I gentilissimi signori della 7 hanno fatto sapere che in merito alla notizia diffusa ieri dalla Zanzara e ripresa oggi dal quotidiano Libero, la 7 smentisce categoricamente che Lilli Gruber possa lasciare l'emittente, a cui è saldamente legata anche da un contratto in essere, per la quale conduce a 8 e mezzo, uno dei programmi di maggiore successo della rete. Smentita del signor Cairo sull'Urbano. Dicono che non lascerà l'Urbano. Cairo, d'accordo, ma che vuol dire? Vedo già il titolo. Cairo contro Cruciani. Ma non è Cairo contro Cruciani, smentito una cosa che... Intanto abbiamo fatto il titolo, poi vediamo. Ma il TG3 l'abbiamo mandato o no già? L'abbiamo mandato il TG3 o no? Mandiamolo, dai, i titoli del TG3. Cairo all'attacco di Cruciani. Ma non è vero. Beh, ma intanto noi l'abbiamo buttata lì, facciamo un'altra smentita domani. Un'altra domani. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate deve dire. Israele colpisce un'altra scuola dell'ONU dove erano rifugiati oltre 1000 palestinesi. È un massacro, almeno 17 le vittime, 200 i feriti, molti i bambini. Marian, la giovane cristiana sudanese condannata a morte per apostasia a Roma, un giorno di festa, ha detto il premier all'arrivo, poi l'incontro con il Papa. Riforme, la maggioranza contingente ai tempi al Senato, si vota l'8 agosto, il ministro Boschi con il referendum, l'ultima parola ai cittadini. L'opposizione, così si stravolge la Costituzione, 5 Stelle abbandonano l'aula e con la Lega e Sinistra Ecologia e Libertà in corteo al Quirinale. Zanda, voi offendete la democrazia, cassa integrazione manca 1 miliardo, lavoratori in piazza a Roma, il governo troveremo i soldi, il fondo monetario di mezzo alle previsioni di crescita dell'Italia. Terzo disastro aereo in una settimana dopo il Boeing abbattuto in Ucraina, oggi è precipitato un aereo in Mali, ieri a Taiwan, era caduto a causa di un tifone, a 8 mesi dall'alluvione che ha colpito la Sardegna, pochi soldi per la ricostruzione, le opere completate, i cittadini, la misura è colma. A proposito del porno sdoganato dal Partito Democratico, abbiamo avuto prima la pornostar che è stata ospite dei Giovani Democratici. Dunque, dopo l'intervista di Rocco Siffredi a Micromega, dopo la partecipazione di questa pornostar a un convegno dei Giovani Democratici, ormai basta, basta, è tutto finito. Hanno sdoganato i pornostar, hanno sdoganato le notizie sul sesso, liberi tutti da questo punto di vista, dopo che ci hanno sfrantumato le balle così sulle storie di Berlusconi, sulla satiriasi, su Berlusconi satiro, su Berlusconi pornografo, su Berlusconi maniaco, ci hanno fatto due palle così. Ma non vedo il nesso, allora, però. Beh, no, c'è un nesso, dai, c'è un nesso, dai. I Giovani Democratici che invitano la pornostar. Beh, per parlare temi a lei affini, cioè la questione della città del sesso, eccetera. La rivista del signor Flores d'Arcais, che dai, fa tutto un numero sul sesso, intervistando Rocco Siffredi come se fosse un intellettuale, dai. Lucia, attenta a quello che dice. Sto attentissimo. Questo è l'avvocato Marra? Sì, certo. Certo, Marra. Guarda, vi segnalo una battuta straordinaria di Spinoza sul fatto: lo smantellamento della Costa Concordia darà lavoro a migliaia di persone. Finora Schettino ha fatto più di Renzi. Gli amici di Spinoza, gli amici Spinoza. Mi hai fatto perdere il filo, però, come al solito. No, non c'è filo. C'è un signore che è intervenuto a questo convegno dei giovani del Partito Democratico, il quale dice esplicitamente che c'è stato un accanimento contro Berlusconi. Cioè, lo dice esplicitamente un professore che è intervenuto a questo convegno dei giovani del PD. Beh, vedi, lì si discute di tutto. Vedi. No, ma non solo, dice anche che c'è libertà di vendere e comprare sesso. Sentilo, è esattamente il contrario di quello che dicevano prima. Libertà di vendere e comprare sesso. Libertà delle donne di vendere il proprio corpo, perché questo è un segnale che esiste la civiltà occidentale. Io una volta ho detto una cosa del genere ad Agorà la mattina e mi hanno massacrato perché ho detto che la civiltà occidentale si riconosce anche dal fatto che una donna, se vuole, può vendere il proprio corpo per fare carriera, per fare la puttana, per fare la pornostar, per fare quello che vuole. Ha la libertà di vendere il proprio corpo, tipico di società occidentali, altrimenti siamo in società assolutiste, in società dominate dalla religione. Tu lo sai bene. Sentiamo questo signore, questo professore, non mi interessa nemmeno il nome, si chiama Caramiello, professor Caramiello. Elisabeth Bandit ha detto in modo molto chiaro che la libertà di vendere e comprare sesso da parte di uomini e donne, la libertà di vendere e comprare pornografia, l'82% delle donne francesi dichiara disinvoltamente di aver visto film porno, è uno dei tratti definitori dell'identità e della libertà degli uomini. Questo è un manifesto, questo è il manifesto, il nostro manifesto, il mio manifesto, anche quello di Parenzo in parte. Ma adesso no, questo, perché sì, tu sei un po' bacchettone. No, ma che bacchettone, anzi, va benissimo. Fammi sentire Salvatore da Palermo, il signor Salvatore da Palermo, già avevo già un ospite pronto lì a fare battaglia, Salvatore da Palermo. È ancora in regia, dietro il vetro regia, come si dice, dietro il vetro. Salvatore, dimmi caro, dimmi. Allora, volevo dire questo, io per lavoro ascolto molta radio. Sì, radio di informazione possibilmente, perché è un modo, anche facendo 60-70 mila chilometri l'anno, certo, non c'è dubbio, passare tempo assolutamente. Ora, spesso ho sentito dire a lei se non piace la sua trasmissione, uno può anche ascoltare qualche altra cosa. Beh, ci mancherebbe, questo è vero, ma in Italia non c'è molt'altro. Vabbè, ma insomma, che vuole da noi, signore mio? No, voglio semplicemente dire... Io l'abbraccio fortissimo, se lei è un grande ascoltatore della Zanzara, dunque io l'abbraccio, la bacio, la corteggio, se vuole le do un bacio in fronte, le faccio un regalo, mi dica lei. Semplicemente chiederle, quando chiama un ascoltatore, di lasciarlo parlare. E infatti la sto lasciando parlare, la faccio parlare, la faccio parlare. No, a me, a tutti. Beh, amico mio, i tempi... Caro amico mio, Salvatore, mi sembra assurdo che il Sole 24 Ore, un giornale importante, sia con un presentatore che non fa parlare le persone. Ma noi, a parte che noi non c'entriamo niente con Sole 24 Ore perché siamo una trasmissione a parte, ma a parte questo, sto ripetendo troppe volte a parte, io lascio parlare tutti qui, non c'è un'altra trasmissione in cui le persone possono parlare di più. Scusi, signor Cruciani, ma lei forse provi ad ascoltarsi. Vabbè, Salvatore, ma lei ci ha chiamato per dire che non lasciamo parlare le persone, per questo ci ha chiamato. Di poter concludere il proprio pensiero, perché le interrompe continuamente e li fa confondere. Va bene, d'accordo. Lei ci ha chiamato per questo, per segnalarci che secondo lei non la faccio. Non ne posso più di sentire sempre persone interrotte. Non può sentire le persone interrotte, ho capito. Che cosa vuole dire? Perché lei, facendo così, una persona che non è abituata a parlare alla radio, lei la interrompe, è normale che lei abbia un gioco. E allora? Grazie. Vabbè, allora, prego, arrivederci. Lasci parlare le persone. Lasci parlare le persone, ma certo che le lascio parlare. È la vita della nostra trasmissione lasciare parlare le persone. Altrimenti non esistiamo. Sì, lei non li fa parlare. Ieri io ascolto e sto telefonando oggi perché ieri quando c'è stato quello che ha telefonato per il fatto dell'Israele, cioè, lei non gli ha permesso di parlare. Ma figuriamoci, se non gli ho permesso di parlare. Sicuramente. Mamma mia, che noia, che noia. Lei è noioso. Lei è noioso. Lei rappresenta Berlusconi. Lei rappresenta come basta i programmi in Italia. I programmi in Italia sono caduti in basso. Luciani, stai un sacco di cazzate. Amici miei. Allora vi annuncio, Urbi e Torbi, popolo della radio, popolo della Zanzara. Mentre in corso Parenzo la sta seguendo attentamente, una specie di marcia. C'è una marcia sul Quirinale, la potremmo definire così perché ho letto un appello al popolo a intervenire davanti al Quirinale, visto che c'è questo incontro tra i Five Stars e il signor Napolitano Giorgio. Sì, non solo i Five Stars, ma anche. No, una donata del popolo. Sì, alcuni senatori chiamano anche. Ma per fa cos'è, come dice l'amico? No, ma soprattutto, secondo te, la gente interessata alla tagliola, alla discussione entro l'8 agosto, la gente non gliene fotte nulla, non pensa che ci sia la dittatura alle porte, non pensa che Renzi insieme a Berlusconi e insieme ad Alfano stanno distruggendo l'Italia, stanno cambiando la Costituzione. Allora è in corso, ecco. Dai, le foto, su. Cronaca in diretta, come direbbe il nostro amico direttore, andiamo davanti al Quirinale, Paolo Brosio, c'è allora, chi abbiamo? Franca, porca puttana! Abbiamo allora forse, no? Guarda qua Emilio Fede, guarda, facci buonasera, la cronaca. Davanti al Quirinale, vero, ora. Sono davanti al Quirinale. Facci tu la radiocronaca, vai, a te direttore. Quirinale, sono lì davanti al Quirinale, effettivamente. Sì, sono passato davanti al Quirinale. E che c'è? Ho visto direttore? Anche Napolitano che mi salutava sotto la bandiera, ho detto sto andando dai miei amici della Zanzara. Allora, veniamo tra pochissimo con Emilio Fede, però volevo farvi ascoltare che cosa. Due associazioni che si chiamano, aspetta un attimo. Si chiamano, sì, Pro Vita e Giuristi per la Vita, due associazioni cattoliche, hanno denunciato per blasfemia dopo il suo show alla Zanzara Oliviero Toscani. Lo hanno denunciato per ancora esistono. Ma è che esiste il reato di blasfemia? Beh, certo. Ma non credo che esista ancora. Come no? Ma cancelliamolo subito. Certo che esiste. Esiste il reato di blasfemia? Beh, perché il cristianesimo non è religione di Stato, ma può esistere anche se tu offendi. Ah no, offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio personale, 403 codice penale. Certo. E mediante vilipendio di cose a 404 codice penale. Come c'è il vilipendio per la bandiera, c'è il vilipendio al capo dello Stato, c'è il vilipendio alla religione, giuristi che non è solo il cattolicesimo. No, denuncia nei confronti di. offesa ad una confessione religiosa, sì, giuristi per appunto. La vita e pro vita. Ma a parte giuristi per la vita, tutti siamo per la vita, vabbè, lasciamo perdere. Le frasi contestate di Toscani dovrebbero essere queste, era il primo o il 2 maggio alla Zanzara, sentiamo. Organizzazione maschilista omosessuale, diciamo. Omo per favore, però non si vestono, fa male a nessuno, però si vestono da donne e ragazzi, non è con le sottane, è con tutto, ma fantastico, è talare, sì sì è vero. La chiesa è un club sadomaso, pensa di essere un marziano, cioè uno, sì, un extraterrestre, sì, che atterri diciamo in Italia, sì, entri in una bellissima chiesa cattolica, sì, non sai niente di quello che è delle condizioni, sì, sì, sì. Dunque entri, vedi uno attaccato inchiodato a una croce, beh, vabbè, che sanguina, sì, vabbè, no, allora... no, poi un altare, sì, un altare con dei bambini nudi che volano, vedi quell'altro sanguinante perché gli hanno costato San Bernardo, ha tolto la pelle, sai, ce n'è di tutti i gusti. Allora? Io credo che un club sadomaso, no, non sia così all'avanguardia. Ma non si può dire una roba simile. Ma non si può, sì, ma scusa, io sono entrato. Citazione. Toscani denunciato per blasfemia, ragazzi, dai, su. Siamo al Quirinale, raggiungeteci per difendere la Costituzione dalle mani del dittatore, scrive il signor Vito Crimi. Tra poco Emilio Fede ci spiegherà tutto di quello che è successo in questi giorni qui dal vivo. Dell'Utri, Berlusconi, Rubi, le conversazioni registrate di nascosto, pazzesco, dal pazzesco suo personal trainer, l'abbiamo qui tra le mani, e ci spiegherà per un anno e mezzo tutta la verità, nient'altro che la verità. Stefano da Bari. Buonasera. Dimmi. Allora, soltanto due cose, io spero di non essere polemico abbastanza. Però... No, lei deve essere polemico, altrimenti che stiamo a fare qui? Mica pettiniamo le bambole. Allora, prima hai detto che è stato fatto il processo al Bunga Bunga, non mi risulta. Ma sì, ma è un modo di dire, amico mio, ma è un modo di dire il processo al Bunga Bunga. Ma cosa chiedevano i magistrati nelle aule di tribunale? L'hai toccata? Che cosa chiedevano i magistrati? Sì. Non solo quello, Luciani, l'hai toccata? Hai avuto un rapporto sessuale? Il presidente si limitava a guardare oppure metteva la mano lì? Cosa chiedevano i magistrati alle ragazze che hanno sfilato nel Bunga Bunga? Non è che chiedevano la filosofia, chiedevano anche questo, per cui certo, quando uno dice processo al Bunga Bunga è un modo di dire, certamente non riassume tutto, perché poi c'era la telefonata, no? C'era la questione della concussione, lo so benissimo, ma è per riassumere? Noi ogni tanto riassumiamo. Certo, Cruciani, tu sei bravissimo. La vostra trasmissione è forse più importante del più importante giornale italiano, cioè del Corriere della Sera. Dal mio punto di vista, sicuramente. Però, ascolta. Nel momento in cui Parenzo dice che la Puppato, anzi tu, anche tu hai detto che la Puppato dice parole in libertà. No, quello ha detto quando Parenzo. Dice una cosa semplice, cioè che la striscia di Gaza è un luogo dal quale i palestinesi non possono nemmeno scappare. Come no? E il signor Parenzo dice questo. Il varco di Rafa che confina con l'Egitto, come lei sa, alla scuola dell'ONU. Cioè, e dice che sono stati attaccati soltanto. Sì, ma la scuola dell'ONU può essere stato un errore, adesso vedremo, eccetera, eccetera. Ma non è l'unico. Tutto quello che succede non è che Israele colpisce apposta la scuola dell'ONU per distruggere, certo, la scuola e ammazzare, sì, i bambini che, sì, ci sono dentro, sì, chiaro? Lo dico, sì. Ma dico che sì. Dice sì, in base a che cosa le dice di sì? In base a che? In base a che cosa? In base al fatto che il Mossad, l'esercito israeliano, non ha mai sbagliato nulla in vita sua. Ma non è vero, non è vero. In guerra ci sono gli errori. Io non sono anti-ebraico, tutt'altro. Anti-israeliano, sembra. La storia di sono sicuramente contro questo Stato di Israele. Ma questo Stato di Israele cosa significa? Questo Stato di Israele? Sta insanguinando quell'aria. Vabbè, sta insanguinando. Lei sa che molti palestinesi feriti vengono curati negli ospedali israeliani, molti civili. Lei sa che il paese più bombardato dai missili è Israele. Non avviene il contrario, diciamo. Lei sa che il paese più bombardato dai missili è Israele, sì, lei lo sa, sì. Resta il fatto che Israele in quell'area non vuole la pace, esattamente come Hamas. Solo che se voi continuate, esattamente come quello che è accaduto per tanti anni, a dire che Hamas è un interlocutore soltanto terroristico, io credo che non se ne uscirà mai. Per cinque anni Hamas è stato un interlocutore dello Stato di Israele, per cinque anni, visto che sono cinque anni che gli israeliani non sono più a Gaza, come lei dovrebbe sapere, però è accecato dalla propaganda. Vabbè. E quindi assolutamente Davide da Vicenza, sentiamo Davide da Vicenza. Davide, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, dimmi, e complimenti per la trasmissione. Allora niente, io volevo intervenire per il discorso dei Rom prima che stava parlando il signor Parenzo. Niente, noi abbiamo avuto un problema circa un 6-7 mesi fa che dei Rom che abitano a Vicenza hanno trovato €1 milione in vari conti correnti. E come no, certo, assolutamente. Ecco, e 100.000 euro in contanti dentro le roulotte. Allora io dico, i figli di questi Rom vanno a scuola con le mie figlie, paghiamo noi la mensa a loro. Certo. Okay, perché risultano nullatenenti, come al solito. Mia figlia, molti italiani risultano nullatenenti, e le dico, sì, no, perché italiani nel senso non Rom. Chiaro. Mia figlia l'anno scorso ha preso le piattole all'asilo. Vabbè, adesso questo che c'entra? Pure mia figlia ha preso i pidocchi, e non c'erano Rom, non è che le piattole le pigliano solo quelli che sono 12 Rom, dai, non esageriamo, dai. No, dottor Cruciani, le spiego. Lavano i bambini all'asilo dentro i bagni dell'asilo. Ma quello è sbagliato. Se c'è una mamma di un bambino Rom che lava il bambino all'asilo, quella mamma dovrebbe essere gentilmente pregata di non farlo, e se lo rifà il figlio va cacciato dalla scuola. Cosa vuole dire? Il problema non sono le mamme dei bambini Rom, il problema sono le mamme degli altri bambini che lavano sti bambini Rom. No, ma il problema è un altro. Il problema è che non abbiamo le palle, ha capito? Perché in Francia usano il pugno duro, la legalità, capito? Noi invece siamo là che non sappiamo che cosa fare, gli insediamenti e tutto. Lei non so, e neanche non so se le interessa come si chiama il sindaco nostro di Vicenza. Variati, Achille Variati. Bravissimo. Ecco, noi abbiamo a Vicenza dei pezzi di strade che fanno vomitare. Vabbè, ma questo glielo dica al sindaco. Allora, aspetti che mi collego a questo discorso. Vabbè, allora? E adesso devono mettere a posto il campo nomadi, 350.000 euro, ok? Però per le strade di Vicenza non ci sono soldi, ma per loro ci sono soldi. Vabbè, non lo voterà più. Bene, se è così, grazie, grazie, ragazzi. Grazie a voi, grazie a voi. Musica! Beh, amici miei, come avete intuito, è con noi l'uomo del momento, messo in croce da queste sotto intercettazione, veramente. Beh, insomma, praticamente sì, è come essere spiato dal KGB. Sì, forse magari il KGB è un po' più intelligente, non se lo fa accorgere, non lo so, però questo perché è a un certo punto ti ha registrato per un anno e mezzo, tu pensa alla pazienza, un anno e mezzo, però io mi chiedo, ma chi l'ha pagato? Perché un anno chi e mezzo? Chi l'ha pagato? Secondo me è una cosa da sapere. Chi è il mandante? Io sono il mandante. No, io, tu no. Sai chi è il mandante, però seriamente. Io direi. Hai dei sospetti? Direi, sì, ho dei forti sospetti. Chi l'ha mandato? No, però adesso ma voglio dire, ma ti pare che uno fa il personal trainer? Vabbè, io l'ho aiutato. Ma poi scusa, ma perché voleva pigliarti i soldi trainer, e basta, scusa. Voleva spillarti i soldi e basta. Ma le ha spillati, Ma che ginnastica ti faceva fare? Beh, registrava solo, amico mio. Che ginnastica facevi? Facci vedere un attimo. Tipo? I rulli, come si chiamano? I rulli. Rullavi le canne? Come le canne? No, mai preso una canna. Ma che ginnastica facevi? E che ne so, amico, ma lo ricordo. Comunque l'ho portato in una tintoria, una palestra, l'avevo portato in tintoria. Come l'avrebbero un po' ripulito, però non fa niente. Un esca alle 8 che si travestiva da maresciallo dei Carabinieri e truffava le persone alla stazione ed è stato arrestato a Milano, ma merita grande rispetto. Ma lui ti vuole querelare, ti vuole querelare. Ah, sì, guarda. Sì. Ti vuole querelare per quello che hai detto, ti vuole querelare per diffamazione. No, io ho detto soltanto che lui è un galeotto, ci mancherebbe altro. Ho detto anche che il padre era padre della mia compagna, un mafioso. No, io non ho mai detto questo. Che è uscito da appena un giro di droga. No, lui mi aveva raccontato che era collegato ai Narcos, che ne Che ma cosa? Che gente non lo so, guarda, ma che ginnastica facevi che c'è una panza così, Emilio? Scusa. Sì, vabbè, ma io con lui l'avevo persa. No, nel senso che gli davo i soldi e lui non aveva da mangiare. No, ma comunque dai, diciamo le cose. Ma poi scusa, tu è che ti puoi permettere, all'epoca ti potevi permettere un personal trainer, diciamola tutta. un personal trainer, ma certo, io con tutti i soldi che guadagno. Appunto, all'epoca ti potevi permettere di nuovo. Lavoravamo, sarai in una palestra. No? Anche tu te lo puoi permettere un personal trainer, sì, 500. Quello è vero. Quello ti è posso, vero, lui c'ha un fratello, eh? Sì, questo fratello. Sì, ecco, sì, no, gli manca quello. Che tipo di fratello è? Che tipo di fratello è? Che fratello è? Non lo so. Pericoloso anche lui. No, no, ma questo non è pericoloso. Tanto si sa chi è, cosa ha fatto. Adesso querela, non querela. Però comunque, per dire le cose onestamente. Ma come fa una persona per un anno e mezzo con un telefonino a registrarti per farne che cosa? Poi ha tentato, so, poi ha tentato di vendere questa, di vendere roba, questa cosa, cioè, e poi improvvisamente guarda caso la coincidenza, mentre in Sicilia si parla della solita ipotesi di Berlusconi legata alla mafia, guarda che succede due giorni dopo che il personal trainer, persona per benissimo, è soltanto uscito di galera, ma ha fatto un furto, truffava, hai detto persona, che è un topo di fogna, va bene, detto, piglia, io topo di fogna, sì sì, un topo di fogna, nel senso, i topi sono carini, li puoi chiamare un furicillo. Ti posso dire una cosa? Sì, sai, dimmi, che chi racconta una barzelletta deliziosa che si chiama usuricillo è la Maria Rosaria Rossi. Non c'entra niente. Che dice? Ma non hai paura tu adesso, ad esempio? Cioè, visto che hai tratteggiato, come dire, elementi, guarda, di questo personaggio, sì, non, però non andiamo, hai paura. Andiamo. Sì, hai, ma paura, naturalmente, no? io non sono affatto né scortato né niente. Sono, ma hai paura, però adesso siamo seri, 30 secondi. Di questo personaggio, certo, ti fa paura? Un personaggio come questo mi fa, sinceramente, no, questo paura. Cioè, hai paura di essere aggredito sotto casa? Beh, sicuramente è un personaggio, lui, ma chi c'ha? Lui. C'ha tatuaggi? Sì, tatuaggi, c'ha tatuaggi di tutto. Armi? Girava armato, no? No, no, armato no, non può, perché lui credo che sia... Ma svastica addirittura, svastica dappertutto? Sì, c'ha la svastica, no, dappertutto, no, una bella svastica, bella, insomma. Beh, un personaggio moderato, mi sembra, così, vero? Cresciuto alla scuola di Inaudi. Comunque lui che cosa dice? Che dopo il licenziamento dalla televisione tu volevi vendicarti ricattando Berlusconi. E hai detto, lo tengo per le palle. È vero o no che lo tieni per le palle? Io le palle di Berlusconi le conosco metaforicamente parlando. Beh, non è che no, lo posso tenere per le palle. No, guarda, non l'hai mai vista da vivo le palle di Berlusconi? No, no, assolutamente. Perché no? Ma no, beh, non l'ho vista, perché potevo dire, mica lo guardo quando... E magari quando hai visto che scopava con qualcuno. Come hai detto in una di queste registrazioni, no, pare che dicevi scopa. Ma guarda, io ti posso dire a proposito di questo una cosa che lui dice, però, a modo di barzelletta, che noi ha fatto male a dire, che è anche abbastanza, sì, qual è, curiosa. Vale a dire che lui, intervistato dai giornalisti stranieri, che gli hanno detto, presidente, su, coraggio, al Bunga Bunga lei toccava le parti intime delle ragazze, le ragazze toccavano le parti intime di Vino Fede. La sua risposta è stata sì, ma era una caccia al tesoro. Sì, no, questa l'hai già detta più volte. Però sì, è vero che tu lo tieni per le palle o no? Ma va, io lo rispetto. Ma l'hai potuto dire a lui, magari anche per scherzo, lo tengo per le palle, Berlusconi. Ma neanche per sogno. Ma si sente anche nella registrazione, Emilio. Ma no, ma guarda che le registrazioni sono nastri montati. Io quando sono andato... E tu a chi ti riferivi quando lo tieni, lo tengo per le palle? Ma assolutamente, non l'ho mai detto questa cosa. Ma guarda che tutto questi nastri, io l'ho detto alla procura di Palermo, fateli analizzare anche tecnicamente, perché sono nastri montati. Però scusa, all'epoca tu eri incazzato perché pensavi che Berlusconi non ti avesse appoggiato. Magari ti è uscita magari così, ti è uscita così in una conversazione privata. Ma l'ha chiesto alla procura di Palermo. Ho detto, ma scusi, quando lei è stata allontanato, diciamo, sì, non in maniera troppo elegante, il suo amico, così, sì, non è intervenuto? Io gli ho detto sì, è intervenuto, tant'è che io ancora sono a Mediaset, ho un contratto di tutto rispetto, ho un ufficio, una segretaria, cioè voglio dire, tutto questo non è mancato. Però tu hai un sacco di segreti per cui potresti ricattare, volendo lo potresti ricattare. Ma, guarda, scheletri nell'armadio ne abbiamo tutti, ma io segreti l'ho detto alla procura. Io, però volendo lo potresti ricattare? Assolutamente no, non ho nulla per doverlo e poterlo ricattare. A voi due sì. Noi si racconta, sì, noi tutti, sì. Ebbene, e siete qua con la tunica tibetana, guarda, tunica non tibetana. Mi immaginate i due Parenzo e Cruciani in tunica tibetana. Ma non è vero, non ma sì, cosa ma siamo cosa vai senza mutande, però senza mutande, anche se sotto siete senza mutande sarà affari vostri, ma non so se vi metteranno in mutande. Scusa un attimo, ma io ho capito, ma è vero che tu la frase lo tengo per le palle a Berlusconi, non l'ho mai detto, non è la mia eleganza, ma non me ne frega niente. Io accanto a Berlusconi ho vissuto per 25 anni da amico non c'era, ma quelle parole là, scopa, l'hai dette quelle là? Ma quello qua l'ho scritto anche a proposito, posso l'hai dire? Detto? No, non l'ho detto che scopava sì. Come? Ma che scopava? Ma non lo so, perché non me l'ha mai raccontato. Allora, a proposito di scopare, questo vostro entusiasmo per l'amore che si vende e si compra, sì, ma io ho un esempio perfetto. Cioè, chi è? Qua, c'è la bellissima Ida Jespica, sì, su Valle Topoli, non Tangentopoli, sì, interrogata dal magistrato che sì, chiedeva a lei, a un certo punto ha detto, scusi, la farfallina è mia e ne faccio quello che voglio. Ma certo, vabbè, questo è chiaro. No, questo... vabbè, sì, questo però, scusami, direttore, Ascoltatore, ma la ancora, la cosa... non l'ho detto, le palle ce l'ha, sì, certamente. Però, sì, cioè, ce tu dici, è tutto un montaggio fatto da questo signore. La gran parte di tutto quello che lui ha registrato a prova di bomba, cioè di perizia. Guardate, se vi racconto che il personaggio è. No, di... ma infatti, ma lui allora hai perché... detto, datele una mano, fatela stare in una comunità, parlando della Ruby. E invece lui scopava e scopavano. Questa frase l'hai detta, si sente anche questa frase. Ma va che scopava con Ruby, ma neanche per sogno, ma neanche se lo vedo, giuro, guarda, io ho detto la storia di Ruby. Dai, scusate, posso dirvi una cosa? Sì. Questo signore, per me non me ne frega niente, ma ancora negli ultimi giorni mi chiamava, per voleva 300 euro per pagare la luce, le bollette della luce, 300 euro per pagare l'affitto. Sì. Mi ha, cioè, io... cioè, cioè, non so come. Poi ha anche criticato il fatto che dava i soldi alle ragazze. Io gli dicevo: sono molto giovani, non esagerare, ma lascia perdere, non te le togli più di torno. Questo l'hai detto? Ah, questo sicuramente l'ho detto e si sa che è stato anche detto. Cioè, vale, cioè, dire, tu hai detto, sua, hai detto questa generosità, capito, di Berlusconi, cioè, e anche ingenuità, va bene, quello di avere voluto aiutare tutte, ma non era un problema stesso, era un problema di generosità che io per gran parte non ho mai condiviso. Cioè, non è, sei sempre stato contrario al fatto che lui pagasse queste non è la parola pagare, di essere troppo regali. Generoso. Allora, tanto, vuol dire, su tutti i giornali, le cose poi messe da questo signore, ex Galeotto, ma perché... Cioè, tu dici, non ci sono tante novità, al di là dei montaggi... No, ma assolutamente niente. Soltanto la novità sarà quando si riuscirà a capire chi... ha organizzato tutto questo e a chi, siccome lui l'ultimo messaggio ha detto io ho bisogno di soldi, sono pronto a tutto, documentato questo suo, e dopodiché compare. Ma fammi vedere sto numero di questo Ferri, fammi un attimo sto numero. Beh, ma no, io sono solo l'ho dato 377. Lo so, no, ma non lo diciamo in onda, no, però. Non dirlo in onda. No, 377. No, perché il signore mi pare anche un po' agitato, diciamo. 377 su tutte le ruote, mi porta dritto in galera. Ma perché facciamo questo numero di telefono così li mettiamo a confronto? Ma non ce l'ho, ve l'ho dato l'altro giorno, adesso sì, che ho la memoria. Sì, ma c'ho poi... la memoria, non lo so, ma voglio dire, lui fino all'ultimo, 15 giorni fa, ancora mi chiedeva, ieri mandavo 300 euro, 400 euro, cioè, capito, lui ha fatto questa cosa, non si capisce. Cioè... Qua dice, tu avresti detto, Berlusconi avrà scambiato la 17enne per una maggiorenne, vabbè, questo è stato accertato, punto, dal tribunale. Cioè, non è sarà verità. Andato con un paio di ragazze, forse non maggiorenni, 17 anni. Questo mai detto, impossibile. Allora, insomma, non è che mai detto, ma risulta, ma anche, scusa, dalle frasi. Ma no, ma vi dico, ma scusa. Adesso guarda, adesso veramente chiamo Cruciani, chiamo Parenzo e vi faccio processare. No, ci siete qua, scusa. No. Comunque, ma sta cosa di Samorì, che tu avresti detto che l'avvocato Samorì. La questione è questa, guarda, molto più semplice, perché allora, ci senza entrare nel merito dei nomi. Samorì ti avrebbe allora, detto. Ma tutta questa, ma perché salta fuori sempre qualcuno? Porca, e c'è un ricattino, è una che l'avrebbe data. Bravo. Ma perché prendi tu la guida di questa trasmissione, non ne posso più di questi no, due. Ma voglio capire, no, perché salta sempre fuori qualcuno che tira fuori una porcheria? Perché? Perché sei sempre in mezzo alla merda? Perché? Perché per questo sono diventato famoso. Che figura di merda. Ma l'ultimo no, ma perché è una... sei sempre in mezzo a queste storie incredibili? Ma gente che ricarica le distrazioni. Ma ragazzi, la storia della valigetta mi ha rovinato. La storia di 2,5 milioni di euro portati in Svizzera e respinti. Mi hanno svaligiato la casa un anno fa. E dopo un anno non so niente ancora. Spiegami una cosa, Emilio. Dimmi. Ma voglio capire, ma sta valigetta, chi è il burattinaio di questa storia? Il burattinaio, no, vabbè, sono io. Guarda, ti giuro. Dillo, cosa sei darei, lì per dirlo. Cosa darei? No, non lo dico mai. Sei lì per dirlo. C'è una procura che indaga. Vabbè, c'è una procura che indaga. Se ha trovato il responsabile. Ragazzi, ma poi hai raccontato un'altra cosa. Hai raccontato pure la storia che Berlusconi aiutava la famiglia di Mangano. Anche questo è su tutti i giornali. Vale no, a dire, giornali. Momento, no, anche prima. Cioè, che Berlusconi si preoccupava della sorte di Mangano, che aveva lavorato tanti anni ad Arcore come stalliere. Si preoccupava di questo, che era tenuto in carcere e lui sospettava che fosse tenuto sotto pressione perché gli facessero dire delle cose contro di lui, e lui certamente si preoccupava anche della famiglia di questo parroco, che era stato uno che aveva lavorato ad Arcore per anni. Ma voglio dire, non c'è niente di nuovo. Io ho detto, poi ho detto una cosa sacrosanta, quando anche di deluto, io sono uscito perché io non sentivo mai, non ascoltavo mai le cose che potevano essere riservate. Però in quel non caso qualcosa hai sentito? No, una cosa appena questa qui dello saliere. Tra l'altro dico una cosa qui. Ma hai detto pure che la Santanchè è una delinquente, hai detto una cosa già, l'hai detto questo o no? No, ma questo l'avresti detto, ma può essere, ti può essere scappato. La 60, anche delinquente non l'ho mai pensato, non l'avrei mai Briatore è mio fratello, porcaccia la miseria. Ma siamo in quel momento eri incazzato con tutti, uno in un momento di incazzatura ti può essere scappato ma qualsiasi cosa. Ma è il racconto che magari io facevo della vita, e io e Flavio abbiamo avuto dei problemi in passato, no? Quindi dicevo, i problemi in passato, e con la Santa che devo dire la verità, con tutte le sue colpe cioè vuol dire cosa, come dire, bene e il male, è una persona che c'è stato un momento in cui mi è stata molto vicina. Ma guarda che io dico la Santa, ma non esiste. Ho capito, ti può signore essere miei, voglio dire una cosa, ma magari se qualcuno interviene che non conosce questo Ichishi, che sta questo questo personal trainer, sì, che bravissimo, perché parli così, non buono, perché parli così, perché parlo così perché con Dio te buono, a casa mica mi scortate voi, oh. Vabbè, ma che vuoi che ti faccia questo qua, dai, su. Beh, cazzo. Con quello che ha fatto dopo un anno e mezzo, che devo fare, cioè, ancora. Dovresti avere, allora, forse Samoriti, la scorta avrebbe detto, Samoriti avrebbe detto: cazzo, se hai ragione, pensa che per mettermi in lista sai quanto mi ha chiesto, 10 milioni di euro. Samoriti ha spiegato perfettamente, ha fatto le sue dichiarazioni, che non era. Poi hai detto: rivolgiti a Dell'Utri, però stai attento perché Dell'Utri è un magna magna. Ma scusa, tu pensi che Dell'Utri sia un magna magna? No, io penso che Dell'Utri, e l'ho detto, l'ho dichiarato anche davanti ai magistrati, è una persona per bene. Ho anche ricordato. Condannato per mafia? Beh. Condannato per mafia, ma no, certamente non per colpa mia. No, ma voglio dire, io sono amico da sempre di Dell'Utri, ma tutto sono questo signore. Vado a trovare in carcere, ma scusa, no? Perché non lo vai a trovare in carcere? Mi fanno entrare. Così gli spiego, non è deputato. Volevo andare a trovare Fabrizio Corona. No, appunto, volevo andare a trovare sei mesi. Condannato in primo grado. Primo grado. Sì, sì, sì. Rischia che va lì e dico: guardi, già che qua rimanga un po' qui con noi, signor direttore. Ma tanto prima o poi. Ti senti un po' come Tortora? Beh, questo mi sembra esagerato. No, ti senti, guarda, perseguitato come torto. Ecco, no, perseguitato, dico la verità. Sì, tutto questo quello forse che un sta avvenendo attorno a me ha una strategia ben precisa. Scusate, dico una cosa seria, faccio una pausa di riflessione e ad alta voce dico: c'è stata una strategia contro di me e continua. Ordita da chi? Ah, beh, che ne so. Beh, tu lo sai, alti vertici, ma il caso unico, ma ti senti un po' perseguitato come Tortora? Ma che Tortora? Io di Tortora ero grande amico, ritengo che la sua tragedia sia una tragedia quella vera, è un caso unico, però uno scandalo. Che io ho la forza alla mia età di superare tutto quello che supero da 2 anni e mezzo a questa parte, vuol dire che, guarda, vuol dire che veramente, se sei condannato in secondo grado, con le palle io, sì. Come? Se sei condannato in secondo grado, che ma fai? Guarda, io ho detto, ho mandato un messaggio a Berlusconi, sono pazzo di gioia, mandato messaggio quando è stato assolto. Quando poi hanno chiesto, ma allora dunque non mi mettete in questa vicenda, io per il momento sono pazzo di gioia per lui, poi quello che accadrà a me non ha importanza, cioè non ha importanza. Poi sono 7 anni, me ne danno altri 7, ma se 14 va, se in Cassazione mi danno altri 7, se vai in galera ti ammazzi. Mi ammazzo invece di andare in galera? No, mi organizzo, faccio il perché fa il telegiornale dalla galera, servizio, certo, perché no, sarei un perfetto servizio TG sociale carcere. Facendo TG carcere, TG opera, TG opera, sapete cosa farei? Farei la zanzarona del carcere, il da al carcere. Oh, abbiamo ragazzi, qui un signore in 41 bis, caro, ecco, amico mio, cari, siamo qua l'ultra. Fai. No, sarebbe così, l'ultra ottuagenario Emilio Fede, ecco a voi in diretta concorrenza con i 2 della Zanzara, che nel frattempo sono stati arrestati per avere violato. Vabbè, TG carcere, facciamo TG carcere se dovessi andare ad opera. Ma scherzi, ma dovremmo farlo. Io l'ho sempre difeso la condizione, ho sempre stato garantista. E no, ma se fai, Dio dire, se vado e se mi mandano in galera, se mi mandano a in galera. A te, tocca di riparare. Sì, tocca di riparare, ce l'hai. Eccole! Ma tu sei impotente, sei impotente. Ma guarda, allora, l'ha già detto Berlusconi, è una caccia. Tu sei impotente o no? Ma che te lo dica a te? Ti si alza o no? Ti si alza quando Cruciani è fissato. Ma ti si alza un po' o no? Ma dimmi la verità, noi che siamo amici ormai, ti si alza o no? Quando vi vedo, sì! Pronto? E il conduttore? Che ti hanno cacciato pure dal movimento Uniti si vince, sì, quello sì, che sono bravi, loro sono bravi, quindi hanno fatto bene dopo le registrazioni là, che sono contro Equitalia, sì, che hanno cacciato a pedate nel sedere, sì proprio sono bravissimi, cacciato, sì. Beh, ti hanno tolto la testa del movimento, porca la miseria, stasera come mangio, prendo la vostra carta di credito. Ciao Emilio. Gennaro. Ciao. Da Napoli, Gennaro. Gennaro, dimmi. Eccomi, amico ed estimatore del professor Caramiello. Oh, il professor Caramiello, però. Ha veramente mandato le lettere delle perle di saggezza. Sì, sì, ma assolutamente. Lui altro non ha fatto che dire come realmente ovunque accade. Meglio regolare, prenderne atto e guardi che costa anche meno. E allora? E allora va benissimo, è una componente transazionale nei rapporti uomo-donna, personali, c'è sempre stata. Tanto vale prenderne atto e finirla con queste ipocrisie. Quindi io penso che non sia neanche un fatto di cultura occidentale. Io credo che sia proprio un fatto di dinamica sociale generale, che lui, da brillantissimo sociologo qual è, ci ha illustrato. Io la penso così. Vabbè, Giuseppe, provincia di Sana, bisognerebbe ricapitolare che cosa ha detto questo professor Caramiello. Sì, buongiorno, cioè... anzi buonasera. Dica, dica. Guardi, io volevo ricordare a voi della... Innanzitutto buonasera a tutti. Volevo ricordare, porre l'attenzione sulle camere di commercio. Renzi è in procinto praticamente di abolire tutto il sistema camerale. Sì, però scusi un attimo, noi adesso non è che ci possiamo interessare dell'abolizione delle camere di commercio, amico mio. Amico mio. Non è un bel tema questo invece, scusa. Sono le partecipate delle camere. Ma non ce ne... Ma perché ce ne dovremmo interessare noi della Zanzara? Perché? Perché? Perché fa parte dell'economia, perché è un caso ancora più importante di Alitalia. Ma invece perché ci dovremmo interessare? Guardi, il mio impegno è domani, che è l'ultima puntata dell'anno, diciamo così, poi riprendiamo a settembre forse, della Zanzara. Il mio impegno è fare domani un approfondimento almeno di mezz'ora, vero Cruciani, sulla questione delle camere di commercio. Mi sembra un tema. Guardi, non faccia spirito di patata, insomma. No, ma, ma non è, ma sarà una cosa serissima. Ma lei si rende conto che non mi posso. Ma non mi posso, ma non mi posso occupare delle camere di commercio. Ma non è che ovunque ci siano lavoratori significa bisogna mantenere in piedi cose che magari non funzionano. Non è una regola eterna. Io non lo so, sto dicendo, ma io sto dicendo in generale. Non sa le cose come stanno. No, scusi. Sistema almeno quello delle camere. Niente, non c'è niente da fare. Questo qua, siccome è interessato alla questione delle camere di commercio, chiama dicendo diamo così parliamo delle camere di commercio. Guardi Cruciani, lei, io posso parlare anche di altre cose. Volevo porre l'attenzione su questo. Ma l'attenzione noi non la possiamo porre perché chiudo la trasmissione. Pazienza, tanto è lei che conduce il gioco. No, ma non ho capito perché io mi dovrei occupare delle camere di commercio. Lei capisce bene che io non me ne posso occupare, altrimenti chiudo i battenti, chiudo tutto. Tiro giù la Claire. Tiro. Si occupa di tutte sì, le cavolate sì, di questo. Sì, esatto, e esatto. Non si occupa di cose serie. No, bravo. Chiami anche l'economia. Scriva, scriva al signor Barisoni, Focus Economia, e gli sottopongo la questione camere di commercio in Italia. Ha capito? Va bene. Poi se vuole parlare di qualcos'altro, mi dica. Io non posso parlare delle camere di commercio, guardi, perché altrimenti chiudo baracca, chiudo tutto. Mi fa parlare un attimo sul Senato, neanche su quello. Che cazzo? Sì, come no, certo. Praticamente io concordo con molti che temono che questa riforma, ne ha parlato stamattina da Coralo, ho sentito. Sì. Anche l'ex segretario Bersani, sì, praticamente sì, l'ha detto in maniera molto soft, questa riforma dà un potere enorme al Premier, se non ci sono... Magari fosse così. Guardi che è così, se non ci sono dei contrappesi, se il personaggio che va al potere è un personaggio particolare, ci potrebbero essere dei risvolti, perché questo diventa Premier... praticamente col 37% giù di lì alla maggioranza assoluta alla Camera, con una piccolissima percentuale del Senato elettivo in maniera indiretta. Questo qui fa tutto, elegge il Presidente della Repubblica tramite il Presidente della Repubblica. Sì, ma non è un dramma, c'è sempre, scusi un attimo Giuseppe, abbia pazienza. Allora, questa cosa qui della dittatura, no? Non esiste. È una cosa inesistente, primo perché nella legge elettorale è previsto il secondo turno. Se uno non prende il 37%, quello che è, se sarà mai approvata questa cosa. E poi perché negli Stati Uniti vanno a votare una percentuale di persone molto più bassa rispetto all'Italia, ma nessuno parla di dittatura, anche se uno viene eletto col 30% degli aventi diritto al voto, ha capito o no? Eppure il presidente degli Stati Uniti. Ma in Italia c'è qualsiasi paese contrappeso. Il governo ha un tipo di sistema elettorale del genere, perché non tutti i paesi sono uguali. Guardi che io da ragazzo a 18 anni ero favorevole al maggioritario tipo presidenziale. Mi sono reso conto col passare del tempo che l'Italia... Sono in diretta, Franco. Aspetta, posso dirti in diretta? Chi è? Aspetta, Franco. Chi è? Franco? Chi è? Franco Rocchetta, sei in diretta. Ecco, puoi salutarmi in diretta alla radio se vuoi. Ciao, ti ho messo... Franco. Grazie. Dimmi tutto. È sempre simpatico, pungente, provocatorio. Ma perché mi chiami in diretta, Franco mio, però, Franco, mi chiami in diretta, era urgente, ci sentiamo dopo? Franco Rocchetta, indipendentista veneto. Va bene, ci sentiamo dopo allora, Rocchetta. È più corretto di molti tuoi, colleghi. Ciao. Va bene, grazie Rocchetta, ciao, ciao, ciao. Allora, Giuseppe, hai posto? Era Franco Rocchetta, indipendentista veneto, arrestato all'epoca per la poi scarcerato. Ah, beh, certo, scarcerato, certo, stronzo, certo. Perché adesso mi ha rotto i coglioni. Ho detto lui, che è stato scarcerato, professore. Perché la cosa non sussiste. Allora, Giuseppe, tu hai posto un problema serio, che è quello... Vabbè, questo è abbassato. Gilberto da Cosenza, dai, Gilberto. Sì, salve, buonasera. Dimmi. Dunque, io sono veramente scandalizzato e veramente... Sì. Sono arrabbiatissimo, diciamo così, per quale motivo? Il discorso è Palestina-Israele. Israele non può definirsi un paese civile democratico dopo quello che fa, che sta compiendo. Sì. Perché se noi guardiamo esattamente... Israele sta subendo un attacco di missili, sta subendo un attacco da parte di un paese confinante, sì, parlare, governato però, da Hamas. Fai parlare Gilberto, dai. Noi sappiamo benissimo, allora Hamas, noi, allora, sappiamo chi sono, ok, vogliamo colpire quelle determinate persone, ma quelle determinate persone dobbiamo acchiappare. Non è possibile che se un terrorista si va a rifugiare in un palazzo, in un tunnel, in un palazzo per colpire un terrorista, tant'è vero che i numeri... No, ma i numeri non c'entrano benissimo. Niente. Posso dire che questa cosa dei numeri, da una parte tot morti e dall'altra parte tot morti, c'è è uno scudo, è per una fortuna. Cosa ridicola. Tel Aviv sarebbe già rasa al suolo se non ci fosse lo scudo che intercetta i missili. Sarebbe già rasa al suolo Tel Aviv. Ha allora, capito? Gilberto, dica. Ma vogliamo dire che la Palestina e dei palestinesi, vogliamo dire che... Vabbè, ma queste sono banalità, dai. Un attimo. No, non infatti, è una banalità, è storia. Ma infatti vogliamo c'è la Cisgiordania, che è la okay. Striscia di Gaza. No, dire che Israele... No, ok, andiamo avanti. Vogliamo dire che Israele... Vogliamo dire che se Hamas avesse usato i soldi dell'Europa e i soldi che i paesi arabi gli hanno dato per costruire grandi alberghi, turismo, strade, anziché armarsi e tirare missili su Tel Aviv, forse anche i palestinesi di Gaza starebbero meglio. Vogliamo dire questo? Che se Hamas avesse usato quei soldi diversamente, anziché per costruire tunnel per infilarsi in Israele e missili da gettare su Tel Aviv, forse l'economia del quel territorio sarebbe diversa. Invece questi hanno usato i soldi dell'Europa e degli altri paesi arabi volte, per però, fare terrore. Vabbè, fai parlare è. Gilberto, dai. Gilberto. Ok, allora vogliamo dire che i confini stabiliti dopo tutti quei vari trattati, i coloni ancora continuano a crescere e a occupare e ad avanzare, lasciando soltanto ai palestinesi la striscetta di Gaza dove non possono, sono bloccati come topi, chiusi come topi. Dopodiché, lo vediamo. Io voglio concludere perché è chiaro, c'è molta facciosità. Però io voglio dire soltanto questo e concludere. Sì. La gente per bene, che non ha interessi, vedendo quello che sta succedendo e sapendo, sì, non può naturalmente avallare questo massacro che si sta compiendo. Vi voglio benissimo, viva la topa! Oh, Fortielli questa mattina da Milan. Sentite che dice su Schettino. Vogliamo dire qualcosa su quelle babione che si sono fatte fotografare con Schettino al White Party? Cos'è? Subiscono il fascino del capitano? Ma come fa una persona normale a volersi far fotografare da Schettino? Che ti devo dire? Probabilmente quelle befane useranno la pasta del capitano per pulirsi la dentiera, non so. Ma chi è questo? Non ho capito. Forchielli. Ma simpaticissimo, signor Forchielli. Perché non lo sai? Ma c'ha ragione, però. E perché abbiamo mai invitato Forchielli noi? Ah, lascia perdere. Perché Forchielli? Poi te lo spiego. Invitato? Boschi e Boldrini. Senti su Boschi e Boldrini. Simpatico Forchielli. Tutte le prime donne, la Boschi e la Boldrini, che da bambine sicuramente erano campionesse di tiro alla fune. Da quanto se la tirano, visto quanto se la tirano, c'è un'esperienza fantastica. Ah, ecco. I giornali sono aperti grazie a... Il primo paese non è Renzi. Qual è? Il primo paese sono gli italiani. Sono molto dietrologi, non molto informati, anche perché i media ormai in Italia sono finiti. Quindi ormai i giornali stanno aperti perché... per i necrologi e le luci delle troie, capito? Ma... Imprenditore stimatissimo, sor Forchielli. patto del Nazaretto, no, del Nazareno, senti. Quello non è il patto del Nazareno. Quello è il patto del Lazaretto. Dopo c'è solo la sepoltura. Va bene, va bene. Senti su Mineo, uno degli oppositori del Partito Democratico. Visto che toleriamo il cambio di sesso del matrimonio, ci può anche stare Mineo nel PD. Padoan, uno che fuma. Padoan. E Padoan che dice l'altro giorno: crescita e condizione per finanze pubbliche sostenibili. Ma cosa fuma? Ma cosa aspettano ad arrestare il suo spacciatore? E infine Renzi, Mussolini, questo è un po' più banale comunque. Un po' di palle, che i 100 giorni sono diventati 1000, capito? Si è messo lì a fare dei diktat che sembra il cucciolo di Mussolini, capito? Oh, Daniel, provincia di Catanzaro, Daniel. Michele da Roma. Sono incazzato nero. Perché? Che è successo? Io ho un albergo a Roma, senti questa. L'altro ieri mi arrivano due signori canadesi. Sì. Mi ha portato la polizia. Gli avevano rubato pure le mutande. Ma chi? Sette zingari, arrivando circondati a Termini, mi hanno inculato tutto. Sono arrivati questi che piangevano. Turismo, prima risorsa del paese, questi arrivano a Termini, ci sono le bande, nemmeno gli indiani nel Far West. È così, è così. E chi li difende? È complice loro. Chi li difende? Chi li giustifica? Nessuno li difende qua. No, Parenzo vuole fare le cooperative. No, non difendo le cooperative, chi ruba, perché pensi che questi vogliono fare le cooperative. Non difendo chi ruba, assolutamente. Sì, ma è facile dire così. Il cancro, sai qual è? Il cancro è questo giustificazionismo a oltranza. Non difendo chi ruba. No, giustifichi, non difendi, è diverso. Togli la differenza, tu che sei intellettualmente frizzante. Non si difende, si giustifica, che è peggio. No, ma manco per un corno giustifico io chi ruba. Oh, ma di che parliamo? Ti giuro, la risorsa del paese, il turismo, arrivano due turisti. Ma non si permetta di dire che io giustifico chi ruba, perché non è assolutamente così. No, tu c'hai una giustificazione antropologica nei confronti di questi soggetti. No, ma che antropologica? Poi già questo vorrebbe dire riconoscerli come razza, come gruppo etnico, cosa che io non dico. Perché non sono un gruppo etnico. Perché gli uomini sono persone. Guarda, io non guardo. Sono Rom. Negare che siano Rom. Sai Einstein cosa diceva? Razza umana. Io sono tutto tranne che razzista. Razza umana. Sono Rom, punto e basta. L'unica razza che esiste è la razza umana. Vuoi negare la realtà? Nega la realtà. Cioè sono una razza, stai dicendo? Non so, cioè sono una razza, sono un'etnia, ma non è quello il punto, dai, dimmi. Allora, Parenzo, mi spiegassi una cosa, tanto c'è. I filippini arrivano e si integrano, i peruviani arrivano e si integrano, i senegalesi, alla fine si integrano pure loro, i cinesi mangiano pane e sputo, ma non rompono i coglioni a noi italiani. E invece arrivano questi, beh, intanto... che rompono i coglioni. Allora io ho i cinesi, i cingalesi, i georgiani, sono tutta la comunità, c'ho un albergo all'Esquilino, sono pieno così. Oh, tutti alla fine, l'egiziano far pizzaiolo, il rumeno far muratore, si integrano tutti, abitano nelle casette modeste, dignitose, questi rompono i coglioni e non si integrano, non se vogliono integrare. E chi li difende? Chi li difende, li giustifica? Chi dice, ma poverini, famo le comunità, ma poverini, mandiamoli a fanculo, altro che, scusa Cruciani, lo sfogo. Ma no, mai detto poverini, mai no, detto. No, ma poverini. Ha ragione al 100%, le leggo quello che ha scritto oggi su Repubblica, nella rubrica delle lettere, una signora che si chiama Laura. La stazione Termini a Roma è diventata un parco divertimenti di venditori abusivi, ladri e borseggiatori. È ormai terra di nessuno. Quando faccio un biglietto ferroviario alla macchinetta automatica, mi ritrovo circondata da persone che pretendono di aiutarmi. Stare attenta a borsa, portafogli, carte di credito, cellulare, selezionare destinazioni orari corretti e in più tenere lontano queste persone è diventata un'impresa ardua. Nell'arco di 15 minuti, in santa pace ce ne avrei messi 2 di minuti, sono stata circondata almeno 10 volte, nonostante gli agenti che ispezionano la stazione, il numero di questi aiutanti, tra virgolette, è aumentato. Una bella cartolina di presentazione che viene dall'estero per ammirare i monumenti della città e si trova alleggerito di soldi. Sai cos'è la cosa incredibile su questo? È incredibile che, siccome allora si sa perfettamente dove dove sono questi criminali. Questi criminali si sa dove sono, no? Sì. Allora basterebbe andare lì, fare ogni giorno una bella retata della polizia, no, e prenderli. Quello è un problema. Quello è un problema. E questa è una cosa. Non allora, è che li siccome puoi prendere, si cercano i latitanti, puoi bivaccare, ma nessuno ti... siccome ma si cercano ma i latitanti, è ben attrito, ma non c'entra niente. No, dai. Sto dicendo, siccome c'è un crimine nascosto che è quello dei latitanti di mafia, no, che spesso non si riescono, no, a beccare. Cosa c'entrano i latitanti? Facciamo le retate con questi criminali a viso, che si sa perfettamente dove le sono. Le risponde lei, per favore, come si chiama? Michele, allora, rispondigli tu, dai. Io sono un albergatore, ma ho due lauree, quindi per un male. Ma guarda che io vivo a Roma, caro, e prendo la metropolitana ogni giorno. Block, difendere l'indifendibile. L'hai letto ma non l'hai capito. Sì, sì, l'ho letto, e come, è vero. Indifendibile. L'ho letto, e come. Walter Block, rileggitelo. Difendere l'indifendibile. Tu l'hai letto ma non l'hai capito. Sedersi dalla parte del torto, perché dalla parte della ragione i posti sono sempre tutti occupati, caro amico, vabbè, mio. Questo filosofeggia qua. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. David? Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah. David? You really got me now. Accesso, Parenzo è al cesso, è andato al cesso, eh. È andato al cesso, ci facciamo. Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Si è alzato e è andato al cesso. Vi dico solo questo, è andato al cesso. Vediamo se è andato a pisciare oppure a fare un bello stronzo, un bello stronzone. Sentiamo subito, eh. Che cosa sei andato a fare al bagno? A pisciare, a cagare, cosa hai fatto? Che cosa hai fatto al bagno? Sì, sì, ma tu sei proprio stupido. Ma cosa hai fatto al bagnetto? Dimmi, cosa hai fatto? La pipì? Com'era, gialla? Com'era, bianchina? Ma siamo in onda veramente? Certo che siamo in onda. Com'era, bianca, ma gialla? Com'era? Ma questo è stupido. Com'era la pipì che hai fatto? Cioè non si può neanche andare. C'è il sindacato, no, ma interno? Ma com'era, no, la pipì? Denuncio al sindacato, no, ma interno. D'accordo, ma la c'è pipì? L'RSU. Voglio sapere la pipì com'era. Com'era la pipì? Era troppo gialla, perché siccome non mi fai neanche bere qui, allora è più condensata, capito? È più, era giallina la pipì, molto, era giallina. Moltissimo, moltissimo. Ma io voglio tanto che parlate di cose interessanti. Vi voglio sentire un'altra volta, i bevitori di piscio. Beh, adesso un altro intellettuale. Li abbiamo messi in eccolo sonno là, quelli. Eccolo. Scusa Davide, ma come, allora hai fatto tante ma pipì? Ma scusami, sono andato semplicemente. Hai svuotato bene la tua vescica? Sono andato semplicemente in bagno. L'hai svuotata bene? L'hai svuotata bene o no? Fermi tutti. Pazzesco. Fermi tutti. Pazzesco. Mentre il popolo dei 5 Stelle, saranno quattro gatti. Il popolo dei 5 Stelle è quello tu, di Sel. Sì, sì, sì, ma l'hai sicuramente detto tu? Sicuramente non l'hai c'è. Ripetilo un po', che così ti massacrano un po' anche a te. Mentre il popolo dei 5 Stelle si stringe intorno al Quirinale, mentre sale alta la protesta contro la riforma del Senato, contro la tagliola e il contingimento dei tempi, noi abbiamo un collegamento speciale. Presidente, caro Cruciani e caro Parenzo, quanto tempo. Pensavo di incontrarvi al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio, invece non vi ho veduti. Beh, caro Presidente, la cerimonia non ci hanno del invitato, diciamoli. Ah, mi spiace, questo è stato uno spiacevole equivoco da parte probabilmente del cerimoniale del Quirinale. Beh, diciamo che non siamo proprio, caro Presidente, nella lista insomma delle persone preferite, non da lei, no, per lei. Carità, dai suoi uffici, diciamo, no? Sarete probabilmente in qualche lista, adesso non voglio scendere nei dettagli. Senta, che sta succedendo lì? Lei è nel suo ufficio, ha ricevuto questi dei 5 Stelle, che è successo? Ma abbiamo sentito, diciamo, un poco di tumulto, un poco di rumore, poco quindi tumulto. Abbiamo, insomma, c'erano alcuni singoli esponenti che sì, davano effettivamente quella sensazione un poco di assedio. Ah, piccoli rumori, dice lei, no? Piccole avvisaglie, niente di. Cioè, voglio dire. avvisaglie di un malumore che devo dire esagerato e, beh, e certo, assolutamente inadatto al rispetto istituzionale, non tanto la mia persona ma la carica, no, che rappresento dovrebbe infondere in questa gentaglia. Beh, comunque, gentaglia, presidente, ma come gentaglia, si sbilancia un po', presidente. Ma scusi, io leggo qui, lo so che lei si è chiuso dentro il suo studio. Ma non la sento proprio preoccupato. Noi siamo con la signora Clio chiusi nel tinello, nell'anticucinino. Come anche ti cucina un palazzo pazzesco, con il quale tinello. Qui scusa, addirittura questa di sé, la signora di sé, Loredana De Petris, lei di Emendamento, e Vito Petrocelli dei 5 Stelle, un altro lei non conosce queste persone, immagino. Vito Petrocelli, Gianmarco Centinaio della Lega, la Loredana De Petris, le dice qualcosa? Questi nomi le dicono qualcosa? Beh, mi pare di aver, oggi ho ricevuto numerosi ospiti, anche alcune delegazioni, può darsi che si siano infilati in alcuni dei colloqui che ho avuto, in degli incontri, lei sa che oramai voi siete, mi dicono, alla penultima puntata di questa, sì, piacevole e fortunata emissione, cui auguro, sì, grande, sì, vita, sì, ma anch'io sto oramai maturando effettivamente la decisione di mollare questo impegno oramai, no, veramente, ecco, gravoso. Oh, presidente, scusi, notizia clamorosa, presidente, lei ci sta dicendo, al Cibali, ci sta dicendo che sta per mollare la Cadrega, adesso glielo dico in maniera molto così, cioè si vuole dimettere dalla carica di Presidente della Repubblica. Sto seriamente riflettendo, sì, sul fatto di poter anticipare diciamo il termine del mio mandato, in quanto veramente le pressioni e le sono e forti, disattenzioni, sì, si sommano. Ma io Clio che dice? Clio che dice? Clio ovviamente sta alla quarta Marlboro, per cui stiamo agitati, mi hanno fatto completamente sbagliare la cottura delle seppie e quindi sono decisamente... Cioè lei ce l'ha con questi grillini, soprattutto perché le hanno fatto, le hanno scombinato un po' i piani di questa sera, i piani culinari di questa sera, diciamo la verità. Diciamo che si sommano gli elementi di disturbo, si sommano e logorano la pazienza istituzionale che pur è nota e che pur io profondo, certo, con grande entusiasmo nonostante l'età oramai avanzata. Comunque pare che questi signori che le ho detto prima sono stati ricevuti dal suo segretario generale, il signor Marra, il quale deve riferire, il quale ci ha assicurato, dicono loro, che riferirà al Capo dello Stato quanto detto. Sì, ma sì, lei è perfettamente nel giusto, anche se io ho comunicato al segretario generale, al dottor professor Cavaliere Simio Marra, sì, di attendere il momento del dopo cena. Come? Cioè dopo cena. Insomma, ma parliamo di riforme istituzionali. Non gli frega a cazzo la politica. Diciamo, scusi presidente, scusi la parolaccia, scusi. Non gliene frega niente. Mi sembra di queste proteste lei le considera, insomma, no, della roba così. Diciamo, cioè, diciamo che lei ha nel suo stile radiofonico che la contraddistingue ben, sì, interpretato il mio sentire. Presidente, la cena? La, no, cena, sappiamo, cosa, sì, la cena in cosa consiste? A questo punto abbiamo dovuto buttare le seppie che si sono attaccate. Mannaggia, in padella, certo, a causa, chiaro, di questi, di questa agitazione, di questi, c'erano ancora che andavano da una parte, sì, all'altra, c'erano consiglieri che si buttavano a pietà, quindi abbiamo dovuto cambiare programma e faremo semplicemente una frittata di zucchine, quella prima ripassata e poi fritta. Ma sono una frittata di zucchine, ma è una cosa tristissima. Vabbè, comunque, guardi, se lei la usa spessa adeguatamente, ripassata con formaggio e poi ci mette sopra un poco di peperoncino fresco, le garantisco che è tiepida e estiva. Beh, però un po' pesante. Vabbè, presidente, grazie, saluti, grazie, Clio, saluti, grazie, saluti la signora Clio, mi raccomando. Vi saluta e vi sente e vi ascolta con affetto. E ci saluti anche, presidente, va bene, ti saluti, dica, anche, dica, ci, dica, ci saluti il signor Radice, se lo vede ogni tanto. L'abbiamo, lei sa che il dottore Radice è cavaliere e verrà nominato commendatore. Beh, addirittura. Ce lo saluti, adesso, dottor Andrea Radice, brava, grazie, persona. Grazie a voi, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva il Movimento 5 Stelle. Ha detto. Si è sbilanciato, capito? Vabbè, dove andiamo? Dopo questo collegamento col Quirinale andiamo a Padova, Nicola. Ascolta Parenzo, ecco, una cosa. È arrivato, eh? Sì, sono, sì, così, immaginiamo. Sì, sì, prego. È arrivato subito. Ecco che arriva. Vai. Ascolta una cosa, ma secondo te non è da criticare, cioè Israele si difende e basta. Giusto? Non ammazza. No, certo che uccide, cioè, mi pare. È una drammatica guerra, certo. Vabbè, Nicola, però vai, forza, di quello che devi dire, vai all'attacco. È una drammatica forza. È una guerra. Sei un coglione, Parenzo, sei un coglione. Mi saluti a casa, tutti i suoi parenti, Mi saluti i suoi parenti a casa, me li saluti. No, mi saluti, siccome lei mi ha offeso, mi saluti tutti i suoi parenti a casa, capito? Mi saluti tutti uno per uno. Ma chi se ne fette? Ascolta. No, io non parlo più con lei, non mi interessa. Non mi interessa. Ma non ti interessa, cioè, cosa vuol dire? Non te ne hai fatto un cazzo di nessuno, te. No, di quello che dice lei, solo con questo tono non mi interessa. Solo loro ti interessa. Come si chiama lei, scusi? Nicola, però Nicola vai avanti, Nicola, vai adesso avanti. Questo lo denuncio però. Ascolta, ma denuncia perché ti ha dato del coglione, sì, scusa, no, che lecca culo. No, vabbè, ma lecca culo, coglione, tu lo dici di cotte di crudo, adesso vuoi denunciare. Questo, ma smettila, questo no. Purtroppo è caduto la penultima puntata, 20 e 28, purtroppo ha colmato la goccia. Vabbè, allora Nicola, dimmi. Ascolta, parento, te, se tu parli di piscio, del colore intanto del mi dà del lei, intanto mi deve dare lei perché non ci siamo per fortuna mai incontrati. Ma cos'è questo formalismo, scusa? No, io decido a chi dare del tu. Vuoi dire siccome quello non che ci pensi? Conosciamo, vuoi dire quello che io pensi? Io le do del lei. Si è messo davanti la cabina, si è passato i pantaloni e si è piccato il rito nel c***o, hai capito? Straordinario racconto del camionista ieri alla Zanzara. C'era anche Antinori ieri, il quale ha detto che il Papa è un coglione. Sì, dopo però averlo come dire accarezzato, senti, in quella telefonata. Io ho rispetto per Parenzo, Cruciani invece, senti, Antinori. Sì. Non ho capito perché ti sei arrabbiato con noi, non c'è nessun motivo per arrabbiarti. No, io faccio una cosa, una visione che io faccio un'altra attività, un'altra cosa, e quindi voi avete fatto quella cosa ieri, anzi siete stati bravi a farlo, dico che puoi dire che poi tutto sommato io ne vengo fuori bene, perché volevo dire a questo coglione del Papa che dice ma, che... Ma scusa, ma che stai dicendo? Scusa, siamo alla Zanzara. Ma non che l'avete portata bene, io ho detto a questo finto coglione del Papa. No, però scusa, Severino. Dimmi. Sono Cruciani, ciao. Dimmi, basta, io non ho rapporto, ma è vero. Poi ha parlato per 10 minuti. È bellissimo, però quando senti il tuo nome? No, non rapporto. No, senti il tuo nome. Io guarda, se ti becco, guarda, io vado in guarda, se ti becco. No, rapporto, non rapporto. Professore, sì. Sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti guarda, ti faccio vedere. Sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Mi porto in processo. Sei un mascalzone. Ma perché hanno bippato quello quando diceva di però che sei culo, un mascalzone, il coso, il camionista, perché hanno bippato? Ma che scusa. Schifo, ieri ho sentito, ma dai, ma era un racconto di vita, un racconto di vita reale, non era Pasolini il racconto, ma che c'entra, un racconto di vita vissuta, di quello che accade sulle piazzole italiane, nelle ma autostrade, ma non c'è bisogno a quest'ora. Scene magnifiche, ma che magnifico, uno schifo, vabbè, assoluto. Uno schifo perché non le vivi, io ti ci porterò prima o poi, ti ci porterò. Antinori, un brocio 20 minuti fa, l'ho detto alla signorina, passami subito Giuseppe che lo fermo, gli lambeggio e glielo passo. Però quello dovevi fare, passarmelo. Antinori su Adinolfi, Mario Adinolfi, ex PD. L'hai detto tu che era falsa la notizia, poi è intervenuto Adinolfi e hai fatto una battaglia con Adinolfi, punto. Ma noi che cosa c'entriamo? Ma uno stronzo, lascio perdere, un sacco di, lascio perdere. Ma che un sacco di che? Poveretto. Ma perché uno stronzo, scusami? No, è un fa dire la parola. Ma scusa, ma perché è un sacco di merda, è uno stronzo, perché un progressista come lui che si mette a dire le cose, cioè veramente ormai abbiamo cambiato qui, ormai sono cambiate le cose. È bella sta colonna sonora nuova, sai? Il Papa è uno che si fa guidare da balordi di Ruini. Che cosa ti ha detto? È sempre professore Antinori. Scusami, professore. Professore Antinori. E guarda. Ma il Papa perché è un coglione? Scusa, spiegami. Ma dai, un coglione perché uno che si fa ancora fare le linee guida per la genetica e per la vita, si fa guidare dai quattro balordi amici di Ruini, ma è uno che non conosce niente. Ma balordi? Ma dice delle cose pazzesche, professore. Mentre saluta, Antinori dice anche che il Vaticano è pieno di pedofili, così en passant. Vabbè, ciao Severino, ti abbraccio, ciao, ciao, presto. Il Vaticano è pieno di pedofili, poi ti ricordo. È pieno di pedofili, diciamolo, è pieno di pedofili il Vaticano. Il Vaticano non solo è pieno, ma deve rispondere di miliardi di soldi per i pedofili e quei danni che hanno provocato. Va bene. Ciao, abbraccio. Ci vediamo, ciao. Tutto calmo. No, ma è bello che l'ha detto, se la potete rimandare, perché lui dice ti ricordo, no? Come se uno la dovesse dimenticare. Ti ricordo. No, c'è una signora che si chiama Valentina Ferraro che mi segue su Twitter, la quale dice: ancora con insulti e parolacce? Lo stile Sgarbi non va più di moda, fasulli come una banconota da quanto che ha scritto? Da 8 euro. Cosa cazzo vuole questa qua? Cosa c'entra? Enrico Pescara, buonasera. Enrico, ma perché ogni volta che chiamo qualcuno non rispondono? Vai Enrico, vai. Linea io. Chi c'ha? Sì, c'era da Padova, sì, c'è sempre. Chi c'è? Ragazzi, chi c'è? Nicola? Chi è Nicola? Sì, è lui, è lui. Nicola, dai, parente, non toglietemelo. Mi vuoi denunciare, parente? Enrico o Nicola? Facciamo ordine innanzitutto. Enrico o Nicola? Nicola. Nicola, che cazzo dite dalla regia? Nicola da Padova. E andiamo, forza. Pronto? Dai. Allora? Questo ride. Nicola, dimmi. Ma dove cazzo leggi Nicola? Pronto? Ragazzi, chi è? Come ti chiami tu? Io sono Enrico. Enrico da dove? Da Pescara. Enrico da Pescara, dimmi, dai. Allora, quello che c'era prima era Nicola da Padova che lo voleva denunciare. C'è questo qua in onda, Nicola da Padova? C'è o non c'è? E allora recuperatemelo, cazzo! Enrico da Pescara, dai! Allora, io volevo solo dire che le persone che stanno protestando contro la riforma costituzionale fanno bene, perché siamo tantissimi a essere arrabbiati, non abbiamo nessuna allucinazione. L'allucinazione ce l'hanno quelli che hanno confuso i valori che sono quelli storici dell'Italia e della Costituzione italiana. Ma quali valori storici? Ma chi se ne frega con questa difesa? La Costituzione del 48? Ma chi se ne sbatte di queste stronzate? Non si può parlare di allucinazioni quando fiori di costituzionalisti sostengono la stessa cosa. Guardi, allora, io posso essere d'accordo sul fatto che Renzi vuole semplicemente una vittoria di facciata per dire io ho fatto la riforma, vuole dimostrare di essere rapido e veloce, e a me mi fa orrore la riforma del Senato, perché vorrei che il Senato fosse abolito, però non mi venite a parlare di dittatura in Italia o di pericolo dittatura in Italia, con tutti i pesi e contrappesi che ci sono, con i TAR, con le rotture di coglioni. Io non ho parlato di dittatura, sto dicendo che io non avrei paura comunque di una dittatura, perché quando nascono dittature nascono anche resistenti. Il problema è che lui va verso e vuole andare verso una direzione autoritaria, cioè riduzione della democrazia. Lui è uno che pensa che le persone non si devono occupare di politica, perché ci sono i professionisti che ci pensano. Questo è il suo pensiero. Vabbè, ma non è vero. L'ha detto in una trasmissione in TV, l'ha detto lui. Ha detto: state qui a rompervi i coglioni con tutte queste cose, i numeri, i numeretti. Voi volete pensare ad altro, e si è preso anche l'applauso del pubblico, perché è pure demagogo. Allora lui va in quella direzione, ma l'Italia deve andare in un'altra, deve ritrovare la forza della partecipazione, e purtroppo stiamo andando nella direzione opposta. Però ripeto, ci saranno quale direzione, quale direzione opposta? Scusi. La direzione opposta è la direzione dell'autoritarismo e della delega. Stanno cercando delega per far contare sempre meno le persone e sempre meno le opinioni. Questo purtroppo è così. Io so, guardi, che le opinioni si sono confrontate. Adesso non mi interessa nulla difendere sta riforma, dove c'è NCD e tutti. Mi interessa solo dire che le opinioni si sono confrontate per dei mesi dentro un posto che si chiama. Beh, gli anni lascia stare quello che c'è stato prima, dal 94 che si parla di sta roba. Ma per dei mesi in questa legislatura, dentro una commissione parlamentare atta apposta a fare questa riforma. Di cos'è che state parlando? Io veramente non capisco. Sto parlando di una cosa, caro parente. Che poi può non anche piacere, anche a me non piace. Perfetto, allora io non sto dicendo che non c'è discussione, sto dicendo che tu come me dovresti difendere una direzione che vada verso la partecipazione. Ma la partecipazione c'è, come? La partecipazione c'è, come? Cosa vuol dire la partecipazione? Uno elegge, non è che se uno non elegge il Senato manca la partecipazione. Ma che discorso è? Ma perché? La direzione è un'altra ed è stata favorita anche dall'atteggiamento di questo capo dello Stato che sta votando tutti i poteri. Non è stato. Grazie Enrico. Quale direzione opposta? Qual è? Che c'è qualcuno finalmente che una direzione autoritaria. Ma quale autoritaria? Ma smettiamola, dai, su con queste puttanate. Giuseppe dalla provincia di Chieti, dai. Oh, buonasera, dottor Cucci. Ah, ecco l'altro fenomeno è arrivato. Mancava solo lui. Adesso recuperiamo anche Nicola. Anzi, no, scusa, Giuseppe, stai fermo un attimo. Nicola da Padova. Sì. Dimmi, Nicola. No, ma Cruciale, io voglio capire se Parenzo mi vuole denunciare o meno. Dorma sonni sereni, poi ci vediamo. Sono i soldi che prendi. Dorma sonni sereni. No, ma li do in beneficenza, guardi. Non ne ho mai presi. Le cause che ho vinto le ho sempre date in beneficenza, guardi. Una ne ho vinte, veramente. E non ci sono state. Davvero? Sì. Cazzo, sono andato bene? Beh, infatti, a lei non so quanto le andrà bene. Vabbè, allora dimmi. Non si preoccupi, guardi, che sarà una cosa simbolica, sarà una cosa simbolica, ma andranno in beneficenza, sarà una cosa simbolica quella che le chiederò, ma andranno in beneficenza, stia sereno. Guardi, la beneficenza la faccio esistendo. Bravo. E lo farà anche questa volta, non sia la sua esistenza. Ma a me non mi interessa, la farà indotta questa volta, diciamo, la farà per via giudiziaria. Giusto per sentirsi ancora più importante. No, assolutamente, non è niente, lei ha detto una stupidaggine, mi ha offeso e ora paga. E ora paga, sta frignando. Ma dai, ma non ha detto nulla. E ora paga, dai, caro amico mio. E ora paga. Bravissimo, esatto. Ma che roba. Ridi. Ma spenga la radio però, ridi. Nicola, se no si sente quattro volte quello ridi che dici ci risentiamo presto. Ma non sono la radio accesa, non vi prendo neanche in macchina. Fai bene a non averla accesa perché dovrai venderla per pagare la querela. Fai molto bene, bravo. Ma veramente. Ci vediamo presto a Padova in tribunale. Ciao. Saluti, buona serata. Carlo Sibilia dei 5 Stelle scrive: a Gaza muoiono civili e soldati, in Italia muore la democrazia per mano di Napolitano, Grasso, Renzi e Berlusconi. Ghigliottina. Carlo Sibilia paragona quello che succede a Gaza, la morte di civili e soldati, alla morte della democrazia in Italia. Non so se vi rendete conto della puttanata inaudita. Meno male che glielo dici. No, è una puttanata inaudita. Cioè, uno può essere rileggi d'accordo. Rileggi un po' cosa ha detto esattamente. A Gaza muoiono civili e soldati, in Italia muore la democrazia per mano di Napolitano, Grasso, Renzi e Berlusconi. Pazzesco. A me questa riforma non piace, però non parlate di democrazia. Pazzesco. Violata. Giuseppe, provincia di Chieti, veloce, dai, forza che dobbiamo chiudere, dai. Oh, Cruciani, buonasera. Dimmi, dai, fenomeno, dimmi. Ha rifirmato il contratto? Ma di che? Ma non ho bisogno di firmare nulla, amico mio. Quanto è raccomandato lei? Ma perché, per quando? Per settembre, dice per lei? Per settembre, sì. Ah, no, vediamo, con calma, vediamo. Le hanno aumentato il cachet? Ma quello sempre, amico mio. Sempre più su. Ci sentiamo domani, ragazzi, 18:30, domani ultima puntata della Zanzara, si chiude la stagione domani 25 luglio. Chiudiamo. Scusa, la Claire. A domani. Siamo al top, ragazzi. Ti è messo davanti la cabina, ti è passato i pantaloni, e ti è piccato il rito nel c***o. Hai capito? Zanzara Best, il peggio dell'anno. Pronto? Buonasera, la Casaleggio Associati, cercavamo il maestro Fo. Sì, per cosa? Gianroberto vorrebbe, Casaleggio vorrebbe parlare con lui, col maestro. Sì, un attimo. Dario, Casaleggio vuole parlare con te. Buonasera maestro. Sei. Buonasera maestro, la segreteria, le passo Gianroberto. Ah sì. Pronto? Eccomi, è Dario che parla. Tutto bene? Magnifico, e tu? Ma magnifico, forse dire troppo. Sì, è troppo. Però, vabbè, purtroppo abbiamo una nazione che ama così. Sono degli ipocriti. Sì, no, ma la cosa terribile è che autolesionista, una nazione di autolesionisti, che sanno benissimo che la cosa è sporca, che le cose non hanno che una soluzione, e però continuano a ingoiare scusi il termine, ma la merda, è così, non c'entra. No, puoi dirlo, anche ad alta voce. Sì, una cosa incredibile. Ad ogni modo ho notato l'ironia e il sarcasmo con cui entrambi avete preso la cosa, e questo è un segno importante, anche per quelli che come me speravano che ci fosse una presa di coscienza da parte dell'elettorato, invece non c'è stata. Vabbè, aspettiamo. Andiamo avanti. Io mi sto chiedendo se abbiamo sbagliato, dove abbiamo sbagliato. No. Non è che è fatto proprio la struttura autolesionistica di questo popolo, non c'è niente da fare. Perché ormai basta, dico. Ha votato per Berlusconi sapendo che è un figlio di. Ha rivoltato ancora e ha rivoltato ancora dopo essere stata fregata con Berlusconi. Questo qui ne ha fatte più di Bertoldo. Quando tu parli con la gente dici sì, è vero, sì, non ha fatto niente, ha detto santo delle balle, ha promesso, ma si sa benissimo che ora. E poi cazzo, vai a votare in questa maniera. C'è proprio da lasciarsi cadere le braccia. Certo che gli italiani sono proprio impreparati. Ma allora si meritano le bettine di Firenze. Sì. Ma è vergognoso. Vabbè, senti, se ne ricorderanno. Ad ogni modo, per quanto riguarda, noi bisogna andare avanti così, guai. Guai darci la colpa, è stupido darci la colpa, perché questa è una decisione, ma più che altro dico, dimostri che sei generoso, che lasci i soldi che ti aspettano, che sei una persona civile, che fai le cose fino in fondo, che sei riuscito a creare una classe politica stupenda di ragazzi, eccetera, eccetera, e ancora non devi votare contro, insomma, una cosa. Vabbè. E poi, visto che ci siamo, si tengano anche Napolitano. Come? Che si tengano anche Napolitano. Ah, sì. Quanto ce lo dobbiamo tenere tra le palle ancora? Probabilmente, purtroppo. Vabbè. Comunque, volevo ringraziarti, comunque. No, grazie, io ringrazio te. Un grazie grande come una casa, sì. Non ho parole. No, io sono cosciente di aver fatto il meglio che si poteva fare, non c'è da fare, e sarò sempre a vostra disposizione, fino in fondo. Grazie. Va bene, salutami anche Grillo, abbraccialo per me. Lo abbraccerò per te, grazie. Prego, ciao. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Andrea, provincia di Varese, Andrea. Buonasera Cruciani, io volevo dire una cosa, prima di tutto premetto che non sono contro le unioni civili tra gay, perché comunque credo che sia anche giusto regolarizzare quel tipo di rapporti, tuttavia però penso che non sia corretto parlare di adozione, perché di solito quello riproduttivo è un istinto, e questo è un istinto. Sì, quello riproduttivo sì, è così. Sì, ma certo, ma non è che i figli si fanno solo in questo modo, si adottano eccetera, la scelta è farli adottare anche a singoli omosessuali o no. Ci sono paesi molto aperti, ci sono paesi invece mettono dei limiti, l'Italia mette moltissimi limiti, come sa, anche all'adozione certo, normale peraltro. Ma io sto dicendo un'altra cosa, che se questo istinto qua al suo culmine nell'atto riproduttivo sessuale. Aspetta. Come mancava, dimmi amore. Professore? Dimmi. Direttore? Dica. Pronto? Dica. Chi è? Chi è? È il direttore Fede? È il direttore? Succede? È il direttore. È il direttore Fede o no? È il direttore Fede, sì. Che fa? Mi faccio una sega. Tu? Ma come? Un consiglio, eh? Dammi un consiglio. Fatelo anche tu. Ma come, direttore? Così non rompi i coglioni. Non è molesto il moschito. Non è molesto il moschito. Era il direttore, ti giuro, lo volevo chiamare. Ma perché? Cos'è successo? Era Fede, è impazzito. Ma perché ha risposto così? Ma non lo so. Non lo so, sembri il bambino che mette le dita nella Nutella. Ma no, non lo so, non aspetta, lo so. Aspetta. Ma guarda, chiedo il sequestro anche di questo nastro. Ma perché cosa stai facendo? Non lo so. Il bambino che rompe il vasetto di Nutella. La mamma dice: Giuseppino, dove è la Nutella? Non lo so. Tutta rotta per terra. Cosa hai fatto? Mio amore. Direttore? Fatto? Direttore? Sì. Come stai? Direttore. Come stai? Bene, bene. Non lavori? Come? Non lavori? Lavoro, sì. Sono qui ai centri sociali. Come ai centri sociali? Spazzo il palazzo Montecitorio. Tutti corrotti. È il tuo capo? Sono condannato. Il mio capo guida il paese. No, non guida più paese, condannato. Sì, condannato. E voi stronzi potete fare niente. Soltanto andare per strada a fare puttana con mamma. Ma che vuol dire? Vaffanculo, dai, su, se ti diverte va bene. Ti vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto, ti vada. Salve. Gerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Mi sono fatto ingolosire dal fatto che Fede risponde alle telefonate in questo modo. Davide, rispondi te adesso, Davide, rispondi te. Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Zanzara. Dove eravamo? Fammi chiamare il mio amico Rom intanto. Professor, direttore? Dica. Oh, siamo noi. Ah, siete voi. Oh, eccoci, come stai? Bene, credo che... Ma che succede ogni volta che insulti? Come? Ho sentito, prima ti ho chiamato io. Ma dove sei? Non si sente niente. La telefonata pronto? Di prima, ti ho chiamato io e hai insultato. Non avevo capito, prometto passavo una macchina di queste... E limousine con una coppia di sposi che mi salutava. Io pensavo, che sei impazzito, non ho avuto manco il tempo di dire che all'inizio. No, certo, sconosciuto, caro mio. Quante persone ti chiamano? Scusa. Beh, hai ragione, scusa. Sì, no, questo è vero. Quante persone mi chiamano e mi minacciano? Addirittura. Sì. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Paolo da Firenze. Pronto? Paolo, dica. Senta, non deve contraddirmi assolutamente, perché mi innervosisco e sono in cura. Oh, sì, scusi. È in cura dove, scusi? E sono in cura. Dove sono in cura? Scusi. Allora, ascolti bene. Sì. Voglio dire a Parenzo alcune cose. Parenzo mi piace sia come uomo che come donna, ma sui 5 stelle... Lei è in cura. Sui 5 stelle... La premessa è che lei... è in cura. La premessa di questo intervento, che ovviamente finirà... Certo, lei non mi deve contraddire, deve ascoltare, ma... La premessa è che lei è un uomo in cura! Qualunque roba lei dica, appunto, la premessa è che lei è in cura, lei capito? Non può interrompermi, no, ha capito? Posso fare mi quello che... Io... Siccome politicamente Parenzo non capisce niente, però ho saputo che è informatissimo sulle usanze tribali religiose dell'Africa del Nord. Ma non mi risulta. Allora, no, io l'ho letto, non mi contraddica. L'ho letto sul sito. Lei, allora, quale sito? Ha bisogno immediatamente di prendere la pillola che oggi ha saltato. Allora immediatamente. Le ripeto, a me Parenzo piace come uomo e come donna. Ma come uomo e come donna non ce ne può fregare meno. Ma dove chiama? Ascolti bene. Allora, io voglio sapere perché la circoncisione ai ragazzi in pubertà e nel passaggio poi all'adolescenza nei paesi del Nord Africa, questo avviene in tutti i paesi, meno che in Algeria. Ascolti bene. In Algeria, ma cosa dice? In Algeria il ragazzo ragazzo nella pubertà a 13 anni deve fare un pompino al nonno materno. No, aspetta, aspetta, scusa un attimo. È vero, sì, è vero. Sì. Ma cosa lo chiedi a me? Non dell'Algeria di... ma si rende conto? Ma è matto, è matto. Non mi contraddica, è vero. Ma no? Non mi contraddica cosa? Non mi contraddica, è motto adesso, non mi contraddica, non mi contraddica. Ma non mi contraddica. Non mi contraddica. Lei dice, la contraddico perché lei dice solo stupidaggini. No, solo stupidaggini. Deve dire. E io la contraddico perché dice stupidaggini, ha capito? La contraddico. Lei mi deve spiegare questa cosa dell'Algeria. Non devo spiegare. Aspetti, Paolo, allora ricapitoliamo. Cosa succede secondo lei in Algeria? In Algeria, al passaggio dalla pubertà all'adolescenza, invece della circoncisione, il maschietto, e non lo dicono e non lo tirano fuori questa cosa schifosa, deve fare un pompino al nonno materno. Incredibile. No, incredibile. È incredibile che uno come lei, in cura, malato, che non vuole essere contraddetto. Non deve parlarmi con questo tono, mi nervosisce, mi fa male. Però scusi, Paolo, ma lei è in cura per che cosa? Non ho capito per che cosa è in cura. Ma per tutto sarà in cura, scusa, sentilo, per tutto è in per cura. Per che cosa è in cura? Io ho una leggera... depressione ossessiva schizofrenica. Ma cosa le dice il medico che può chiamare tranquillamente la Zanzara per come dire, per cercare di superare questo momento difficile, oppure no? Io non esco mai di casa e devo parlare, mi ha detto comunicare, mi sembra che la trasmissione vostra è molto adatta a me. Da quanto è che sta in questa grave versa, in questa grave situazione? Da quanto? 25 anni. Ormai è difficile, è difficile. Grazie, capito, Paolo. Ha capito? Sì, ma ho capito che? Cosa ho capito, cazzo? Sia calmo! Ma sono calmissimo. Siamo calmissimi noi. Siamo calmissimi. Deve parlarmi in un modo corretto. Vabbè, arrivederci, Paolo, arrivederci. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Che tempi. Radio 24. La passione si sente.